so che cosa vuoi sapere, lo so e te lo voglio dire. Stasera testimonio il cielo, voglio aprirti. Sulla tua bocca smarrita.